Gigi, ieri per me è stata una giornata speciale e tu puoi aiutarmi a non dimenticarla. Francesco ieri mi ha regalato un sogno. Quando sto con te mi sento in paradiso. Alice. Cosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato. La fa chi balla. Piero Ballardo. Chi non si muove è una palla. Quiero ballar.

volete scrivermi. 333-64-67-662. Ciao Gigi, mi devo far perdonare dal mio amore Nicky. Vorrei dedicarle la passione e dirle che la amo troppo. Dome da Torino. Oh, sono tuo concittadino. Benissimo. Che provo per la mia dolce Flaviana musicalmente si può descrivere in un unico modo: la passione. Tribuni della plebe, vorremmo dedicare l'ultimo dei Moicani. Bogaci, via questo. Lo volevamo dedicare a Emanuela e Gianna. Dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona Latina, discoteca 24.000 baci. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao, sono Walter. Volevo dire a Katie che non la sogno più, perché non è mai finito il sogno nel quale il mio sguardo ha trovato per la prima volta il tuo. Vorrei dedicare lo sbaglio. Katie, mi fai sognare. Ti amo. Gigi D'Agostino, facci un pensierino, fammi sentire lo sbaglio un attimino. Sono Marcolina. Le rime c'erano. Sì. Va bene. Sono lo zio Mauri da Como. Vorrei dedicare lo sbaglio a Paolo di Castiglione. Chi ha quante dediche? Ogni volta che sento lo sbaglio, mi vengono in mente i ricordi più belli della mia vita. Chicca da Firenze. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Forse quel giorno era impazzita.

che è dal buio che sono nato e grazie a lui ho camminato. Luce che si produce grazie al buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Luce che si produce grazie al buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce, sembra banale ma è reale. Ciao Gigi, sono appena uscito dal mio lavoro in banca. La tua musica mi accende la luce e mi dà la carica. Di a Giusy che la amo. Damiano, da Sant'Angelo Lodigiano. Penso che posso ballare, con questo casino mi posso esaltare. Al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento, violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirige Gigi D'Agostino. Stefano, lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22, Gigi D'Agostino suona Cigliano, vicino Torino. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano, prendiamoci la mano. Infoline 392-822-5259. Frequenza è codesta e la musica pesta. Mischia bene sti dischi, vai G. Volevo dedicare un lento violento a mio marito Albi. Rosanna da Torino. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso. Ma questo è il mio universo. È la prima volta. Lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Lasciati andare, lasciati andare. Se per te è la prima volta. Lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare. Se non trovi una guida o dei degni compagni di viaggio, va solo piuttosto che in compagnia degli inconsapevoli. Capito come? Dhammapada. Il cammino, cammino, cammino, cammino, cammino. tutti nel mondo che non c'è. Capito come? Se per te è la prima volta, lasciati andare, lasciati andare. Capito come? Ovvio. Lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare. Il 15 dicembre del 1966 l'astronomo Audin Dolphus scopre Janus, satellite di Saturno. Il cammino di Gigi D'Agostino, il tuo peperoncino. D'Agostino, la Nouvelle Martel, sta radio ti arriva in destro alle ore 18 suona il maestro. Caro zio Gigi, sono serva di Bergamo, volevo salutare i miei amici Super Tamarri, Falco, Confa e Miki C. Sì. Grazie per la carica e l'amore che ci regali ogni giorno. È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Aria, per Gigi D'Agostino. Sì, aria. Sì, aria. Fermamosi un momento. Parte lento, violento. E vi... Maestro, corteadro, erburattino, Gigi D'Agostino. Sono Marco da Torino. Vorrei dedicare la canzone Non sono un santo alla mia ragazza Giorgia. ballo e canto, tu stammi accanto, però sta attenta, non sono tanto. Io ballo e canto, tu stammi accanto, però sta attenta, non sono santo. E ballo e canto, tu stammi accanto, però sta attenta, non sono santo. Ma ballo e canto, tu stammi accanto, però sta attenta, non sono perciò e pertanto tu stammi accanto, però sta attenta, non sono un santo. Ma tu ogni tanto tu stammi accanto, però sta attenta, non sono un santo. Ma ballo e canto, tu stammi accanto, però sta attenta, non sono un santo. Domani sera, sabato 16 dicembre 2006, Gigi D'Agostino suona a Latina, discoteca 24.000 baci. Più grande è quello che vi dà un godimento tanto forte da porvi nell'assoluta impossibilità di sentire altro. Così come il male più grande è quello che giunge a privarci di ogni sentimento. Voltaire. Il cammino di Gigi D'Agostino. Di Savona. Vorrei sentire l'amour toujours. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly. fly with you. I'll fly with you. Sono Maria di Parma. Sono un'infermiera. Gigi, ti ascolto sempre. Vorrei dedicare l'Amour Toujours al mio fratellino Quirino. Gigi D'Agostino, musica che unisce. Vorremmo dedicare l'Amour Toujours a tutte le belle ragazze della nostra classe, sperando che un giorno possano essere un po' più disponibili nei nostri confronti. Simo, Piero, Batto e Dani, quarta D, Genga. Quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani. Mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire. Mani che pensano, che vogliono dire, che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Santo Stefano, lento, violento. Martedì sera, 26 dicembre 2006, dalle ore 22, Gigi D'Agostino suona Cigliano, vicino a Torino. Discoteca 2. Vieni tu e le amiche tue. Vieni a Cigliano, prendiamoci la mano. Infoline 392-822-5259. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante.

Ci sentiamo domani. Grazie.